America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, grande serata americana, grande serata degli Oscar, grande festa. Festa perché americana? Beh, perché è un po' dappertutto in America la si celebra questa serata degli Oscar, con feste nelle case, con eventi. Qui a New York mi avevano invitato al Rockefeller Center, dove c'era un grande evento organizzato. A Los Angeles, naturalmente, il centro, il cuore pulsante della serata. I just want to take the opportunity. I want to dedicate this award for my fellow Mexicans, the ones who live in Mexico. Grande vincitore Alejandro González Iñárritu, regista messicano di Birdman, film che ha fatto L'Amplen, addirittura 4 premi Oscar. Devo dire, non mi ricordo di un artista, mi riferisco a Iñárritu naturalmente, che sia andato 3 volte a prendere la statuetta dal podio, parlando tutte e 3 le volte, perché il suo film Birdman ha vinto come miglior film, naturalmente, migliore regia, migliore sceneggiatura, e queste sono le 3 statuette che ha ricevuto direttamente, e poi un 4° premio, migliore fotografia. Iñárritu, personaggio veramente amabile, un uomo molto interessante, ha dedicato il premio ai colleghi messicani, Alfonso Cuarón che ha vinto il premio Oscar l'anno scorso per Gravity, l'ha dedicato ai suoi connazionali e ha fatto anche un po', devo dire, un discorso politico. Ha detto che, insomma, si augura che si possa trovare a Mexico City un governo che si possa costruire, lo avete sentito, il governo che ci meritiamo. E poi, questa è una cosa che mi ha colpito, insomma, piuttosto toccante, lo ha voluto dedicare soprattutto ai compatrioti immigrati che vivono in America. Ci sono milioni di messicani illegali che vivono in America, che sono al centro di un grande dibattito politico per l'ordine esecutivo sull'immigrazione che ha dato Barack Obama, e il messaggio è molto chiaro. Ha detto: spero che vengano trattati con la stessa dignità e rispetto con cui sono stati trattati quelli che sono venuti prima di loro e che hanno contribuito come loro a costruire questo paese. What are you saying? You're saying love is absolute? Yes! Yes! The kind of love that I'm talking about, it is absolute! Ecco, il film Birdman è stato girato in 30 giorni a New York, ha neutralizzato Boyhood, che era il vero concorrente, però Boyhood alla fine si è dovuto accontentare di una sola statuetta per miglior attrice non protagonista, che è andato a Patricia Arquette. Ma veniamo a questa storia del film, che è originale, provocatoria, molto forte nell'interpretazione, con Michael Keaton, che è il protagonista che in qualche modo finisce per interpretare se stesso, perché lo ricorderete, Michael Keaton è il protagonista di Batman. Ecco, in questo film si porta l'esperienza del superhero a Broadway. Regan Thompson è una celebrità decaduta, viene considerato così un attore non molto bravo, interpretava questi ruoli di supereroi, di superhero, e vuole cercare il ruolo serio, lo vuole cercare a Broadway, e decide di portare questo spettacolo teatrale, devo dire un po' melodrammatico, sull'amore, tratto dall'opera What We Talk About When We Talk About Love di Raymond Carr, che appunto non ha niente a che fare con questi suoi film, che erano più così dei film da cassetta. Ecco, c'è un complesso intreccio psicologico in questo film che rappresenta così le difficoltà di un attore che si sente fallito, che ha un rapporto molto difficile ma molto intenso con una figlia, una situazione economica disastrosa. In questo film c'è anche il rapporto con la critica del New York Times, col ruolo della critica, con le idiosincrasie che gli attori hanno fra di loro, relazioni incestuose, il ruolo che possono giocare i social media. Insomma, un film che disturba, ma è veramente originale, creativo, sorprendente, ecco, è molto sorprendente nella sua trama, se non l'avete visto andate a vederlo, con dei minuetti stilistici che secondo me sono appena accennati ma che poi tengono insieme il film, un film che certamente meritava di vincere. Nulla invece per American Sniper di Clint Eastwood, considerato sicuramente bellissimo da molti, girato molto bene, bellissima regia, e sicuramente si è accontentato perché è stato il vincitore al botteghino. Ecco, un poker anche per il film di Wes Anderson, Grand Budapest Hotel, che ha vinto miglior colonna sonora, migliore scenografia, miglior trucco, migliori costumi. Perché i costumi ci interessano? Beh, perché è la 4ª statuetta di Milena Canonero, torinese, che dopo Maria Antonietta, Barry Lyndon e momenti di gloria si è portata a casa, credo che sia la prima volta per un'artista italiana, ben 4 Oscar. Sentiamola. Thank you. all of you, thank you very much, member of the Academy, and thank you, Wes. This is you. This I should share with you. You've been a great inspiration. You are like a conductor. You are like a composer. You are our director, and you inspire us, all of us. Ecco la Canonero che dice: grazie Wes, questo è per te. Si rivolge al regista: sei stato di grande ispirazione, sei come un direttore d'orchestra. È nuovo un film fantasioso, molto originale, molto bello, poteva competere, era uno dei film che competeva per miglior film. Senza di te, continua la nostra Canonero, dice, questo film non l'avrei mai potuto fare in questo modo. This Oscar, miglior attore, avete sentito Eddie Redmayne che scoppia in un balletto liberatorio euforico sul palcoscenico, un giovane bravissimo per questa sua interpretazione nel film La teoria del tutto, dedicato a Stephen Hawking, il grande scienziato inglese. Ecco, la sua interpretazione è straordinaria perché c'è un'evoluzione contorsionista in questo suo ruolo di attore da personaggio normale, come era Stephen Hawking in un'università inglese quando studiava le sue teorie scientifiche, a questo corpo rannicchiato in una sedia a rotelle come lo conoscete, che però esprime grandissima energia, grandissima intelligenza proprio grazie alle sue teorie. C'erano altri candidati molto credibili: Michael Keaton, appunto, di Birdman, Steve Carell di Foxcatcher, Bradley Cooper per American Sniper, Benedict Cumberbatch per Imitation Game. Credo però che la vittoria di Redmayne sia stata assolutamente meritata. I read an article that said that winning an Oscar could lead to living 5 years longer. If that's true, I'd really like to thank the Academy because my husband is younger than me. Julianne Moore, miglior attrice protagonista, anche lei commossa, entusiasta, un film importante, Still Alice, la storia di Alice Holland, una cinquantenne che viene diagnosticata per una forma presenile di Alzheimer. Molto giovane, comincia a vivere soffrendo nel rapporto col marito, di queste sue incertezze, fragilità, dimenticanze, le crolla il mondo addosso, una donna fragile, in difesa, e la sua interpretazione, devo dire, è magistrale, perché crolla questa figura di donna anche agli occhi di una famiglia che la vedeva da sempre come un pilastro. Era in lacrime, devo dire, quando è andata sul palco e ha scherzato, l'avete sentita, ve l'ho fatto ascoltare prima, dice: ho letto che un Oscar può allungarti la vita di 5 anni, dunque grazie Academy, perché mio marito è più giovane di me e dunque ne avevo bisogno. Sarebbero gli altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la canzone del giorno non può che essere quella che ha vinto il premio Oscar. È la canzone di Selma, il film dedicato a Martin Luther King, parole di John Stevens e Lonnie Lynn, interpretata da John Legend e Common. Hanno dato l'interpretazione della canzone che ha lasciato coinvolta la platea. C'è stato un messaggio politico. Legend dice: Selma è ora, Selma è attuale, perché se 50 anni fa c'è stata la battaglia per il voto, oggi c'è la battaglia per la giustizia. Non possiamo cedere a compromessi, ci sono molti più neri in prigione di quanti ce ne fossero durante la schiavitù nel 1850. Common dice: Gloria è un simbolo di cambiamento che trascende, Gloria il nome della canzone, la canzone che ha vinto naturalmente, è un simbolo di cambiamento che trascende la razza, la religione, l'orientamento sessuale, e un ponte è stato costruito anche per aiutare quelli che stanno combattendo per la loro libertà, per esempio a Hong Kong. E dunque di Legend and Common, Glory, tratta da Selma. One day when the glory comes, it will be ours, it will be New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.